leggo un messaggino. La Pasqua è buona se c'è la musica che suona. Domenica 20 aprile, Rimini, discoteca Altro Mondo, ore 23. Pasqua elettronica, se vuoi sapere, vuoi ballare. Informazioni sul mio sito www.gigidagostino.com oppure 335 5645 740, oppure cose sicure, venite lì senza paura, oppure cose sicure, venite lì senza paura. Quella cosa che succede a quelli che successa quella cosa che succede a quelli che non arrivano più in tempo e non si spiegano il perché. Successa quella cosa che succede a quelli che non arrivano più in tempo e non si spiegano il perché.